Siamo qui per dire che, al contrario di quanto sostengono Modaccini e Lepore e Tomasi AD di Autostrade per l'Italia, il passante non è un'opera sostenibile, al contrario è un'opera completamente insostenibile sotto molti profili. Quello dell'inquinamento sicuramente, perché aumentando il traffico, passando dal 40 al 50% dell'inquinamento da traffico veicolare sul comune di Bologna, il passante inquinerà di più per la popolazione residente. Insostenibile dal punto di vista della salute. Un mese fa abbiamo chiesto una valutazione di impatto sanitario indipendente a comune e regione, supervisionata da esperti di nostra fiducia. La risposta è stata un silenzio tombale, quindi nonostante avessimo avvisato sindaco, presidente di regione, consiglieri comunali e consiglieri dell'assemblea legislativa, nessuno ha pensato che fosse opportuno risponderci. È insostenibile anche sotto il profilo della crisi climatica. Uno studio proprio di Autostrade, quindi non fatto da indipendenti, però è l'unico che abbiamo, dice che nel 2040, quindi 10 anni dopo che Bologna virtualmente, teoricamente dovrebbe diventare città carbon neutral, il traffico, il solo traffico sul passante di mezzo emetterà 266.000 tonnellate di CO2, non compensate in alcun modo dalle cosiddette medicazioni che ci propongono. Se anche realizzassero i 50 megawatt di picco di pannelli solari che hanno promesso, questi assorbirebbero 33.000 tonnellate di CO2 circa, quindi ne resterebbero al 2040 233.000, che sono una cifra assolutamente incompatibile con gli impegni di riduzione che noi ci siamo dati. Quello che noi chiediamo è non allargare autostrade, che sono un incentivo al traffico privato su gomma, merci e persone, quindi non dobbiamo incentivare il traffico sui tir e con l'auto privata, dobbiamo potenziare tutto quello che è trasporto pubblico locale, servizio ferroviario metropolitano, pedonalità, ciclabilità, cioè cambiare radicalmente il modello di mobilità agendo anche sulla domanda, non solo sull'offerta. E quindi le abitudini stanno cambiando lentamente dei bolognesi, bisogna incentivare quei comportamenti più virtuosi, incentivare per esempio le imprese a incoraggiare lo smart working, fare quanto è possibile la pubblica amministrazione a intensificare il processo di informatizzazione per evitare che debbano essere i cittadini a spostarsi per usufruire dei servizi, e quindi questo bisogna fare, non certo allargare autostrade, che è l'esatto contrario di quello di cui abbiamo bisogno oggi. A proposito delle mitigazioni, anche Autostrade aveva espresso perplessità su alcune, in particolare su questi filtri che dovrebbero trattenere parte dell'inquinamento. Ora ha cambiato idea? Non lo so, sentiremo cosa da dire. In realtà esperti del calibro di Vincenzo Balzani ci hanno spiegato puntualmente che gli elettrofilti funzionano da bene in ambienti chiusi. Cioè, quindi quando si tratta di convogliare per esempio i fumi industriali di un impianto industriale in camini molto molto puntuali, funzionano abbastanza bene. In un ambiente aperto come un'autostrada, una tangenziale autostrada, sia gli elettrofiltri sia le altre mitigazioni, come per esempio le vernici fotocatalitiche, avranno un impatto sicuramente trascurabile. E oltre a questo bisogna pensare che per fare elettrofiltri significa occupare ettari di terreno, a descendere l'autostrada ettari di terreno attualmente impermeabilizzato, quindi andremo ad aggravare il già grave consumo di suolo del passante di mezzo. Non solo, ma significa comunque sottoporre la popolazione ad altri anni di cantieri, quindi noi dopo una fase 1 di circa 5-6 anni di lavori per l'allargamento delle autostrade dovremmo assorbirci altri 3 o 4 anni di lavori per l'installazione degli elettrofiltri. È un modo di procedere secondo me un po' paradossale, cioè dobbiamo smettere secondo me con questa logica del fare danni e poi fare la rincorsa alle mitigazioni. Dobbiamo evitare assolutamente di fare danni. Come rete delle lotte ambientali bolognesi avete diverse iniziative anche contro il passante, quali saranno le prossime? Dunque, intanto veniamo da una regione molto significativa che è passata anche dalla manifestazione di Firenze con il collettivo GKN, dal sciopero globale dei Friday for Future del 25 marzo, quindi del 5, 26, 27. Il 27 abbiamo fatto un'assemblea metropolitana sul passante di mezzo. Stiamo cercando di raccogliere il più possibile forze attorno all'opposizione al passante per andare nel prossimo futuro a fare iniziative sempre più incisive di informazione innanzitutto alla cittadinanza, e quindi prevediamo di fare degli incontri nei quartieri interessati dal passante per spiegare alla popolazione che quello che racconta Autostrade per l'Italia, che ci racconta una comune ragione, non è la verità sul passante, la verità è un'altra, e cercheremo di fare iniziative sempre più incisive. E quindi il prossimo appuntamento, il primo che diamo, è per il 25 aprile, quindi noi andremo a celebrare la nostra resistenza a questa invasione d'asfalto e cemento e l'inquinamento che non possiamo più tollerare.